E siamo dentro un momento molto delicato per quanto sta accadendo sul piano legislativo, cioè proposte che stanno inchiodando la questione migranti dentro la sicurezza, cioè dentro tematiche di legalità, di delinquenzialità. E quindi è una preoccupazione che ci mettiamo e che ci dà l'opportunità con questa festa di far conoscere che non siamo dalla parte della paura, ma siamo dalla parte delle relazioni, non siamo dalla parte dei pregiudizi, siamo dalla parte dell'incontro, della conoscenza, dello scambio culturale, dello scambio dei cibi, dei sapori, dei colori, delle danze, dei corpi, insomma, ecco, quindi sarà sì, una festa di lotta non violenta, di presentazione di una realtà che sa convivere insieme, lavorare insieme, sperare insieme. Insomma, la questione dei migranti si è vissuta più come il senso di una grande opportunità e di apertura di orizzonti, e non si è vista solo come luoghi e contenitori dove limitare la possibilità di libertà, di transito, di relazione con il mondo e con la nostra Bologna. Insomma. Durante la festa ci saranno diversi linguaggi, da appunto diciamo quel cibo, la musica, le danze. Sì, perché le presenze dei nostri ragazzi qui sono presenze del Centro Africa, del Nord Africa, del sud-est asiatico, dell'est europeo, quindi le lingue, il linguaggio delle musiche, che è un linguaggio universale, i canti di libertà che saranno in qualche modo proposti originalmente come diverse presenze, rappresenteranno anche un momento per far conoscere che i canti di lotta che noi proporremo, perché dovrebbero essere presenti i bambini e bambine del coro del Pratello, dei bambini resistenti del Pratello, che quindi ci insegneranno e ci ricorderanno quali sono i canti di libertà, e lo ricorderanno a tutti, così come gli altri ricorderanno a noi i loro canti di libertà, insomma. In una fase appunto politica anche del nostro paese delicata come questa, la Chiesa sembra essere poi l'unico faro rimasto sul tema dell'antirazzismo in modo chiaro, netto. Sì, direi che c'è un'avanguardia evangelica con Papa Francesco molto forte e chiara in questo senso. Non trovo dentro la Chiesa una unanimità conseguente, ma ci sono possibilità di allargare questo fronte di conoscenza e di impegno con proprio feste, non dico come questa, ma con tutte quelle realtà dove l'incontro diventa più importante rispetto le questioni dei decreti sì, dei decreti no che vengono proposti. Esprimiamo ovviamente preoccupazione per questo momento, perché ci rendiamo conto che l'opinione pubblica è stata drogata e ubriacata di slogan, di argomenti, di culture sotterranee emerse così in maniera ostile. Ci rendiamo conto che sono la maggioranza delle persone, noi lo vediamo anche dentro la Chiesa questo, quindi per noi la festa invece vuole essere un'alfabetizzazione di un nuovo vocabolario di relazioni tra popoli diversi, persone e anche sentimenti diversi, insomma.